man, Nara with the policeman, Ara with the civilian, said they will we are one, one blood, one blood, one blood. You could have come from London, now you come from Birmingham. Could have come from Brooklyn, now you come from Boston. One blood, one blood. Pezzo questo comunque fondamentale, perché negli anni 90, 1990 per essere precisi, rullava parecchio nelle dancehall in tutta la Giamaica, tant'è che ai stessi giamaicani da questo pezzo avevano preso, per così dire, un'abitudine di salutarsi e porgendosi il pugno uno con l'altro si dicevano appunto one blood. Nara with a white man, could I be a Mexican, Nara with a Pakistan, one blood, one blood, one blood. You could have come from Lebanon, now you come from Iran, could have come from China, or you come from Japan, one blood, one blood, one blood. You could have be a Bobo Chedara, I am Iki, Nara with a Atadak, Nara with a Jedlak, one blood, one blood. You could have be a Catholic or a weather African. Could have be a church on earth. One blood, one blood. I made it high. I want to get me straight. Corporate high. Aye, aye, aye. Now, ladies and gentlemen, this is Rockers. Downtown Rockers. Downtown Rockers. Downtown Rockers. Ogni mercoledì dalle ore 23:30 sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Downtown Rockers. Reggae, roots, rockers, dub, dancehall vibes, Rabba Dabba. Downtown Rockers. Ogni mercoledì dalle ore 23:30 sulle 87.900 di Radio Onda Rossa. Dediche, richieste, saluti. Linea diretta 49 17 50. Downtown Rockers. Non puoi mancare. E allora buonasera a tutti i rocker. Giardiai ai controlli. Linval Thompson. Don't trouble trouble, non farmi problemi, non crearmi problemi. Don't try to wake the lion, because he will hurt. E questo pezzo lo dedico a due loschissimi individui. Che sabato notte, vestiti da pupazzetti, sono entrati dentro al Forte Prenestino con una pistola. E hanno sparato 10 colpi all'impazzata, il tutto per andare a avvertire gli occupanti del centro sociale che la musica era troppo alta. E allora non createci problemi. Perché di problemi già ce ne sono tanti in giro. E anche anche questa sera, venendo da Spinaceto, abbiamo incontrato il nostro bravo e puntuale posto di blocco, Carabinieri. Vi ricordiamo sempre di segnalare eventuali storie, racconti, episodi che riguardano il cattivo comportamento delle forze dell'ordine, la violenza che contraddistingue le forze dell'ordine in Italia. I don't trouble trouble, because I know trouble is dangerous. Why did you trouble trouble? Why did you look for trouble? Johnny Osborne. E allora tu devi essere un guerriero, una guerriera. Le repressioni da battere sono tante, e non vanno in giro solo con la divisa, ma ce ne sono tante, tante. You must be warrior. You must be warrior. Anche questa sera la mia selezione spazierà sul roots. Un folto numero di 7 pollici Studio One. E ricordo il telefono della radio, che è il 49 17 50. Se avete qualcosa da dire in diretta, fatelo. Se avete delle richieste, Downtown Rockers è una trasmissione aperta. Tuffati nell'onda di Downtown Rockers. Tuffati nell'onda di Downtown Rockers. Studio One. The Mad Lads, 10-1 è il titolo del brano. Made in Jamaica. Thank you. ricordiamo anche che è iniziata la campagna di sottoscrizione di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che sono in vendita le registrazioni in dal DAT dei concerti degli Odd Zirk Tentacles, dei Dub Syndicate e degli Zion Train. Il tutto a lire 10.000 per Radio Onda Rossa. Una radio che non campa di pubblicità ma di sottoscrizioni. Una radio libera. Sulla stessa base, sulla stessa etichetta, Ghetto Girl di Green Tea and Chassis. You don't like the so soon, I love the chat. You know social, you know social, so no aristocrat. You know live on no hill, you live on the flat. Me no business when nobody out the road want chat. Me love you to the bone and tell the whole world that. So come green tea, come live me as the flesh. You are my number one, you are my number two. Me tell it them already, never tell them again. Oh man, you are my number one, 2 and 10. Oh man, you are my number one, you are my friend. No diamonds and gold, you are more than them. My very special number, you are my gem. Everything comes with it, everything comes with it. Me love you from the street, I love you from the bed. Come down, Fatina e Londa, Downtown Rockers. Vai, vai, vai. Real people, no? Me right, man. Yes. You are listening to Rockets Radio Station on the Rossa, no? Real. Allora, people, sabato prossimo al Joe Garage del Brancaleone, Villada Massive Dancehall Business. Tutti invitati, sì? Senti, ma come state messi? Stare alla Ghetto Youth Promotion di Spinaceto Land. Buonanotte a tutti e buona trasmissione. Senti, aspetta, ma quante colonne porterete? Ah, no, quelle che c'avevamo. Se ripariamo una cassa, due. Ma com'è fa un sound system? È tosta? Cosa? Fa un sound system? Domani mattina ripariamo una cassa, poi venerdì partiamo, ci andiamo a fare una vacanzetta e sabato si vedrà, insomma. È duro scaricare visto che se ne vanno tutti prima, no? Quello è il brutto, però uno na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Sì. E torni a casa easy, Harry. Va bene, belle parole. Lo sai bene, no? Sì. Vabbè, voi ce l'avete in casa il sound. Ok. Bella, regà. Buonanotte. A te. Ciao. Ciao. No easy, Mr. Thompson, but I'll touch my elbow. And don't know you run to the past. Un big up per la Villada. Spoon at the church. Somebody. Rispetto per tutti i dancehall massive in questa città. E ogni dancehall può essere un momento di liberazione, perché la musica è un momento di liberazione. You me that shelter, clothes and feed. You send my emotions, pan a stampede. Cause you tickle me panty, me love you hanky panky. You give me the sweetest taboo and I want you with me, yeah. You tickle me panty, me love you hanky panky. You give me the sweetest taboo and I want you with me. Now with this game of love, I am preoccupied. To your publication, I have to subscribe. Your love has been tested, proved, and tried. Make me be the groom and I will be the bride. To your whims and fancies, I have to oblige. I'm principled, respectable, you fill me with pride. Because you do me fancy, me love you, want you, want it. You give me the sweetest time, and I want you with me, yeah. You do me fancy, me love you, want you, want it. You give me the sweetest time, and I want you with me. You tingle me fancy, me love you wanky bunky. You give me the sweetest taboo, and I want you with me, yeah, yeah. You tingle me fancy, me love you wanky bunky. You give me the sweetest taboo, and I want you with me. Because me must get your loving and your tender kiss. Your warm personality I could not resist. Your genuine style make me clock start. Because you're soft, you warm, you romantic. Make me be the plug, you be the socket. Yes, my woman have the loving magic. Because you tickle me fancy, me love you and you want it. You give me the sweetest taboo and I want you with me. Chua, you tickle me fancy, me love you and you want it. You give me the sweetest taboo and I want you with me. Chua, tickle me fancy, me love you and you want it. Tonelli, can I change my mind? Una ristampa dell'Attack. Rossa 87 900 FM, è l'1:34. E sul piatto numero 2 pronto un altro 7 pollici di Studio One. Un'etichetta che caratterizza fortemente il brano. Tutti gli amanti del reggae, il mercoledì notte dalle 11:30 in poi ascoltate Downtown Rockers su Radio Onda Rossa 87.9, sin parola di Presidente Arpi, che te lo dico a fa, ascolta Downtown Rockers, sin. Massimo rispetto a Presidente Arpi, che ci ha fatto lo spottino. Uno spottino sicuramente di qualità. How Can I Live di Eptones, un gruppo storico della scena reggae giamaicana. La cui etichetta si chiamava Trench Town, proprio come il ghetto di Kingston, in piena downtown. This is a rockers, ladies and gentlemen. This is a rockers, ladies and gentlemen. This is a rockers, ladies and gentlemen. Etichetta Treasure Isle, Queen Majesty, Queen Majesty dei Technics, un altro gruppo storico della scena reggae, un gruppo che è passato dal rocksteady al primo reggae, appunto. Studio One, Half Pine, Beatitude. Turn your tutta amore e coscienza, che te lo dica fa. E questa è la versione originale del pezzo, quella di Slim Smith. Un artista reggae morto suicida. Il ritmo è sicuramente più vicino al rocksteady. Blessed are the merciful, for they shall know mercy. Blessed are the merciful, for they shall know mercy. Oh Lord, don't turn your back on me. Don't turn your back on me, don't. Why must you hurt your brother so long? Why must the wicked be so strong? Tonelli's Cry Tough. How can a man be tough, tougher than the world? Treasure Isle, l'etichetta. For if he's rough, he's against the world. He's against the world. Cry tough, don't you know you're getting slow? Cry tough. Oh yes, you are getting older. How can a man be tough, tougher than the world? E la linea telefonica potete instaurare con noi, una linea di comunicazione, potete salutare, raccontare. Dangerous, dangerous. If you eat a fault, you treat me good. Da Jordi Ai, la buonanotte a tutti voi. Diffondete le vibrazioni. Rockers. If you are dirty, away from me. I'm like a stepping razor. Don't you watch my side. Fine cena a tutti gli amanti del reggae, il mercoledì notte dalle 11:30 in poi ascoltate Downtown Rockers su Radio Onda Rossa 87.9, sin parola di Presidente Arpi, che te lo dico a fa, ascolta Downtown Rockers, sin... Ancora Radio Onda Rossa 87, 8 e 50 nella modulazione di frequenza. Anche se non hai controlli, questo è Downtown Rockers. Sono le ore 2 di notte. La notte è ancora giovane. Ancora un'ora di fronte a noi di buone vibrazioni Roots Rockers. It's a black man's land. We're all black men. Visto che la trasmissione è dedicata come al solito ai carcerati, alla repressione che limita la liberazione, alle mille forme di repressione, alle pistolettate dentro i centri sociali. C'è un modo per fermare tutto ciò, sì, c'è. Stand up and fight. Alzati e combatti. So Africa is a black man's land. Wowie, wowie, wowie, wow. Now Africa is a black man's land. We're all black men below. Now, oh no, we gotta go, we gotta go, we gotta go right now. Oh no, Africa, we wanna go. Far beyond the Caribbean, where we asked and treated like a slave. No, we gotta go, we gotta go, we gotta go right now. Oh no, we gotta go, no, no, no, no. Oh no. il mercoledì notte dalle 11:30 in poi ascoltate Downtown Rockers su Radio Onda Rossa 87.9, sin parola di President Arpi, che te lo dico a fa, ascolta Downtown Rockers, sin... Intanto il 15 febbraio 89 a Torino, Giovanni Lofogo di 21 anni, un tossicodipendente che viene sospeso da una guardia giurata mentre tenta di rubare alcuni oggetti da un'auto, fugge sulla Fiat 500, sulla sua Fiat 500, ma la guardia giurata spara e lo ferisce alla tempia. Giovanni Lofogo, 21 anni. Caso numero 600. Non è questo che ci scandalizza, questa società che è scandalosa. Radio Onda Rossa 87 8 e 50, Roots, Reggae, Rabba Dabba. Hold on, brothers, be good and you'll be blessed. Come again now. Don't trust them, Colonel Saint. Make them patronize. Non credetegli, spesso le vittime vengono proprio criminalizzate. Come è stato fatto proprio dai giornali, anche da quel famoso manifesto. Simple men like me and you, corrupting the whole world with violence. In questa ultima occasione, per quanto riguarda il centro sociale Forte Prenestino, criminalizzato come dal Corriere della Sera, che aveva la musica alta. 10 morti per la musica alta. 10 tentati omicidi per la musica alta. Don't listen to what they say. Ma lo sappiamo bene, le forme di repressione sono mille, quotidianamente, dai giornali alle televisioni alle pistolettate. Non è questo che ci scandalizza, è la società che è scandalosa. Don't trust them, non credetegli. System, scapegoats of society. We are led by evil doers, spreading hypocrisy. It's like blind man leading blind man. And the man che te lo dico a fa, ascolta Downtown Rockers. Sim. Be good and you'll be blessed by the Most High. Don't trust them, don't trust them, don't trust them, no. And their evil lies. Don't trust them, don't trust them, don't trust them. Make them criticize. Don't trust them, don't trust them, don't trust them, no. And their evil lies. No, don't trust them, don't trust them, don't trust them. Make them patronize. Father, forgive them, for they know not what they do. Threatening humanity, simple men like me and you. Corrupting the whole world with violence and evil deeds. Stopping manifestation of Jah and his rightful seed. So don't trust them, don't trust them, don't trust them, no. And their evil ways. Don't trust them, don't trust them, don't trust them. Don't listen to what they say. Don't trust them, don't trust them, don't trust them, no. And their evil lies. Don't trust them, don't trust them, don't trust them. Make them patronize. We are products of the system, scapegoats of society. Ricordiamo il telefono 491750. Potete andare in diretta qua a Radio Onda Rossa alle 2:21 di questo giovedì 7 novembre 1996. Don't trust them, don't trust them, don't trust them. E quando guardate il telegiornale, guardate gli occhi di colui che parla. Don't trust them, don't trust them. Vi renderete conto che non dovete credergli. Don't trust them, don't trust them. Don't trust them. Don't trust them. Don't trust them. No. Mo, Downtown Rockers, ogni mercoledì su Radio Onda Rossa 87 8 e 50. Roots, reggae, rubba dubba. Giugno 89, Luigi Masullo, 21 anni, conseguenze morto. Breve descrizione: tossicodipendente, ruba uno stereo da un'auto, viene bloccato da un agente di polizia. Durante la colluttazione parte un colpo alla pistola dell'agente che colpisce mortalmente la gola a Masullo e ferisce alla coscia il poliziotto in forza al quarto reparto. Presunto reato: furto. Contesto: colluttazione. Forze dell'ordine, polizia. Complici, nessuna. L'arma della vittima, nessuna. 13 giugno 89, Luigi Masullo, 25 anni, ucciso dalla polizia. Caso numero 619. vieni dal letto che ci sto tanto un rocker se selezioni sul radio onda rossa rock is my no selection. Questo lo dedichiamo a quelli che invece stanno in giacca e cravatta, che fanno gli investigatori, che vi pedinano, che ci pedinano, che ci ascoltano al telefono e che ascoltano Radio Onda Rossa per sapere dove va la sovversione. Per continuare ad amplificare il terrore, la paura. In questo mondo c'è sempre qualcuno e qualcosa da temere. Investigator Cornel Campbell, Yes Bizza. Sono gli investigatori che seguono le mogli, pagati dai mariti, dopo 20 anni di matrimonio. 20 anni, una vita. 20 anni, Radio Onda Rossa. Certo, uno che fa seguire la moglie, ho 20 anni di matrimonio da un investigatore, chissà che si è raccontato. Caso 527, 23 agosto 87 a Pavia, Emanuele Ditrani, 16 anni. Tornando da una festa dell'unità, da un passaggio sul motorino da un bimbo di 12 anni, viene fermato dai vigili e nasce un alterco. Per il vigile che ha sparato, ferendolo, si è trattato di una disgrazia. Per alcuni testimoni lo sparo era intenzionale. Complici, nessuno. Arma della vittima, nessuna. Yes, it's coming. Buonasera a tutti gli amanti del reggae. Il mercoledì di notte, dalle 11:30 in poi ascoltate Downtown Rockers su Radio Onda Rossa 87.9, sin parola di Presidente Arpi, che te lo dico a fa, ascolta Downtown Rockers, sin. Mercoledì sera 87.9, ascolta Downtown Rockers, boom! Mantieni questo livello di voce. Ok, ciao, dici. Ciao, io mi volevo. Ho sentito la storia di un uomo che ha fatto seguire la moglie dopo 20 anni di matrimonio. E allora questa cosa mi ha fatto venire in mente che ci sono tanti modi in cui la gente si può far del male anche da sola. E che comunque in tutti questi modi danno una sponda a tutti quegli altri che invece cercano di terrorizzarci continuamente con altri mezzi e strumenti. E mi è venuta in mente una cosa che ho letto tanto tempo fa, l'ho ritrovata, anche se sto in un posto misterioso questa sera, però l'ho trovata anche in questo posto, e la frase dice più o meno così: la nostra volontà di felicità e di liberazione è il loro terrore, e reagiscono terrorizzandoci con il carcere quando la repressione del lavoro, della famiglia patriarcale e del sessismo non bastano più, perché cospirare vuol dire respirare insieme. E allora io direi una cosa, voi scegliete una bella canzone, mettete un bel pezzo e lo dedichiamo a tutti i respiri che si stanno per unire e che insieme cospireranno e affretteranno la morte di questo sistema così non solo repressivo ma omicida e assassino. Ciao, buonanotte. Buonanotte, un bacio. Belle parole alle 2:32. La notte porta consiglio. Il 491 750, il telefono di Onda Rossa. Intanto nello studio stanno cospirando, respirando. Ti dico, scendi dal letto che c'è sta Downtown Rock, se selezioni sul radio Onda Rossa. Visto che ci è stato richiesto un pezzo a proposito, il pezzo si intitola No More Tears. Long time they fight against me. Nessuna lacrima, basta con i pianti. Il pezzo dice: da molto tempo stanno combattendomi e cercano di buttarmi per terra. No more tears in the ghetto, nessun pianto nel ghetto. Lui è Franklin Bernard. I do to make them see. No more tears in the ghetto. All I want is to be free. Perché tutto ciò che voglio è essere libero. All what I want is to be free. No more fears. Nessuna lacrima, nessuna paura. No more sorrow comes tomorrow. Nessun dispiacere vogliamo domani. No more tears, no more fears. E va bene, ve la rimetto. Long time they fight against me. Ascoltate il testo. Trying, they're trying to keep me down. La musica non è divisa dalla politica. Just like a child, I used to. La vita è vita e va vissuta. Wanting to know the reason why. What must I do to make them see? All I want is to be free. No more tears, no more fears. Vai, poeta di strada. Mi chiamo Ardo, qualcuno dice che sono un bastardo. Spingo avanti la mia rima, pungo come un cardo. Per la strada di Babilonia non mi perdo, anzi tiro al servo e a volte azzardo. Yes. Right. succede anche questo alle 2:30 di notte. I Rockers di Downtown sono svegli e svegliano le coscienze. Yes, big up, we love you. I fail, try again. Hearing the pressure and the pain. I wanna. And no more tears, no more fears. No more sorrow comes tomorrow. And no more tears, no more fears. No more sorrow comes tomorrow. Fine fine a tutti gli amanti del reggae. Il mercoledì notte dalle 11:30 in poi ascoltate Downtown Rockers su Radio Onda Rossa 87.9. Sin parola di Presidente Arpi, che te lo dico a fa, ascolta Downtown Rockers. Sin. Numero 535, 15 novembre 1987, Benevento, Maria Chiusolo, 19 anni, conseguenze, morta. Descrizione: Maria Chiusolo, mentre si reca a cena in una pizzeria con il fidanzato in auto, viene bloccata da due auto civetta con poliziotti in borghese. I poliziotti in borghese scendono, mitra in pugno. I due giovani spaventati invertono la marcia e fuggono. Gli agenti in borghese sparano e la uccidono. Forze dell'ordine, polizia in borghese. Complici, nessuno. Arma della vittima, nessuna. Maria Chiusolo, 19 anni, uccisa dalla polizia il 15 novembre 87 a Benevento. Scendi dal letto che ci sta tanto un rock, se selezioni su Radio Onda Rossa Rock is Nano Selection. E questa la dedichiamo ad Ardo. Basta Ardo. Lui è Junior Delgado. C'hai qualche problema? Trouble. E se c'è qualche problema, problema. E vi ricordiamo anche la trasmissione del venerdì sera, Rockaz Hip Hop Jungle Vibes. That money could buy. 351-790-750 è sempre il nostro recapito telefonico. Quella che ascoltate è sempre Radio Onda Rossa, l'unica radio a colori, giallo, rosso e verde. Unica ed imitabile. Imitare Radio Onda Rossa si può, nessuna pubblicità. Si può. 20 anni senza padroni, si può. 20 anni, una vita intera, si può. Fine fine a tutti gli amanti del reggae, il mercoledì notte dalle 11:30 in poi ascoltate Downtown Rockers su Radio Onda Rossa 87.9, sin parola di Presidente Arpi, che te lo dico a fa, ascolta Downtown Rockers, sin... E questo è Jacob the Killer Miller. Avanti sempre, avanti tutta, forward ever. So gather the people from around, get them to rock to the sound. I make them sing this song of culture, I make them sing in them song of love. E queste sono canzoni di cultura, sono canzoni di amore, sono canzoni di libertà. I make them sing in them song of love, I make them for a word ever and about, never, for a word ever and about, never. That's what you just is will celebrate. Sing them a song of culture, I make them sing in them a song of love, I make them sing in them a song of a culture, I make them sing in them a song of love, I make them for a word ever and about a word never, for a word ever and about word never, about word never, about word never. Ascolta Downtown Rockers, boom! Caso numero 579, 18 settembre 88, Nule, Sassari. Salvador Angelo Mellino, 16 anni. Conseguenze, morto. Breve descrizione. Un giovane pastore sbeffeggia un carabiniere in licenza dicendogli sei uno sbirro. Quest'ultimo gli scarica addosso l'intero caricatore della pistola d'ordinanza, uccidendolo. Presunto reato, oltraggio. Forza dell'ordine, carabiniere. Complici, nessuno. Arma della vittima, nessuna. 10 settembre 88, Nule, Sassari, Salvatore Angelo Mellino, 16 anni, ucciso dai carabinieri, caso numero 579. E il pezzo che state ascoltando è la versione Forward Ever, si intitola Colt 45. Questo per dirvi anche domani, giovedì 7 novembre, per cui tra qualche ora, da queste frequenze 87.900 di Radio Onda Rossa, con inizio alle ore 10.30, andrà in onda Scommetti che ti sparo, dibattito radiofonico con gli occupanti e le occupanti del centro sociale Forte Prenestino sui fatti avvenuti sabato 2 novembre. Ricordiamo che potete intervenire utilizzando il 49 17 50. Ricordiamo che è meglio che interveniate. Comunque, sempre, ovunque. Intervenire significa non rimanere passivi. Per cui domani mattina dalle 10.30 scommetti che ti sparo. Downtown Rockers, ogni mercoledì su Radio Onda Rossa 87.850, Roots, Reggae, Rubba Dubba. E allora, proprio perché c'è il terrore e la paura che fanno sì che questa società, questo sistema, questo stato continuino a regnare, non tagliatevi i vostri capelli. Don't you cut your dreadlocks. Samson was a dreadlock, but he played a fool. È un altro momento per sentirsi liberi, liberi del barbiere, liberi della società che impone il capello corto e la cravatta con la giacca. Because Georgia will chastise you, he will hurt you. Don't you cut off your dreadlocks. Non ti tagliare i tuoi dreadlocks, please. Let it go, let it go, let it go. Lasciali crescere. Linval Thompson. I know most people think that dreadlocks man is an evil man. But let me tell you something, dreadlocks man is a righteous man. So don't you cut off your dreadlocks, let it go, let it go. Don't you do it, my brother, let it go, let it go. Whoa, whoa, whoa, dreadlocks man, don't you cut off your dreadlocks, let it go, let it go all through your life, my brother, my brother. Say, don't you cut off your natty dread, let it go, Rasta man, let it go till it go on. Let it flow till it flow on. Jaja say, hey. Wah, wah, wah, ha, ha, ha. Jaja zang, jaja zong, hey. Jaja hong, mama long, hey. Jaja long, mama long, hey. I said, down, she cut off your dreadlock. Let it go, let it go, Rasta man. Let it go on. Samson was a fool. That's why Delilah betrayed. So down to cut off your dead. Yeah! Polizia, aprite! Wah, wah. Wah, wah, ah, ha, ha, ha. Don't you cut off your dreadlock. Caso numero 420, 2 novembre 85, Teramo. Achille di Rocco. 7 anni. Ferito. Tre bambini che si trovano su una Fiat 127 guidata dal fratello maggiore, un nomade di 17 anni, vengono feriti perché la loro auto non si era fermata all'alt. Durante l'inseguimento il giovane tenta più volte di far uscire di strada l'auto dei carabinieri ed i carabinieri sparano. Stesso giorno, stessa auto. Dopo Achille di Rocco di 7 anni che rimane ferito, c'è Emilia di Rocco, 10 anni, ferita. Stesso giorno, stessa auto. Dopo Emilia ed Emanuele, di 7 e 10 anni, c'è Marisa di Rocco, di 10 anni, ferita. Casi numero 420, 421, 422, 7, 10 e 10 anni. Ma questa società che è del tutto scandalosa e che continua a scandalizzarci, più andiamo avanti e più vi leggiamo queste cose, ci assicura che è veramente scandalosa questa società. Garantisce questi fatti, garantisce questi scandali. E oltre a garantire questi scandali, questa società che è scandalosa si impegna in maniera sempre più forte inventando le guerre. Il prossimo pezzo si intitola War the Nation, Nazioni in guerra. Lui è Prophet. Mancano pochi minuti alle 3. Andiamo ancora avanti per un altro po'. Mentre nell'altra sala, al di là del vetro, a forza di cospirare e respirare insieme, si sono accasciati al suolo. Thank you. caso numero 429, 4 gennaio 1986, Roma. Gianna Cagliazzo, 20 anni. Conseguenze, ferita. Mentre si trova in compagnia del fidanzato su una panchina nei giardini antistanti il Quirinale. Non un palazzo a caso, il Quirinale. Viene ferita ad un braccio da un colpo sparato da un agente. La questura afferma che il colpo è partito mentre l'agente puliva l'arma del servizio. Presunto reato, estranea. Contesto, colpo accidentale. Forze dell'ordine, polizia. Flagranza, nessuna. Complici, nessuno. Arma della vittima, nessuna. Gianna Cagliazzo, a 20 anni, il 4 gennaio 86, si è beccata una pistolettata a gratis. I casi sono moltissimi, almeno in questo libro che abbiamo sono 625 e si fermano alla fine degli anni 80. Alla fine degli anni 80 ad oggi sono passati quasi 10 anni, per cui ci sarebbero altri 620 casi più o meno, quelli conosciuti. Aprite. No, non si può accettare, Natti can't take it. Natti non lo può accettare, non lo può proprio prendere. E sono mille le forme di repressione, ci dice in questo momento Danny, che ci canta Natti can't take it, Natti, Natti Dread. Io mi alzo tutte le mattine, dice, e vado a lavorare tutti i giorni. Un Natti Dread questo non lo può proprio fare, perché lavorare fa molto male. E ci fermiamo qui nel leggervi i casi che fino ad ora avete ascoltato, sono tantissimi. Avremo bisogno di tantissimi mercoledì, ma non ci fermeremo a questo, non ci fermeremo neanche solo al mercoledì, proprio perché la società è scandalosa. Noi siamo scandalizzati tutti i giorni. The rich man would live and the poor man would die. Ci dice Natti, can't take it, Danny. Il ricco continua a vivere mentre il povero continua a morire. Il povero però non c'ha bisogno del ricco. È il ricco che c'ha bisogno del povero. E siccome sono mille le forme di repressione, una fra le prime è proprio il lavoro, il dover lavorare per poter campare. No, no way up, never ever take. Lavorare fa male. Yeah, you know? You better... Per cui se lavorate fatelo con lentezza. You better bow to Jehovah. E mettiamo un altro brano, in questo caso Jashaka. Il pezzo si titola Take Time, prendete tempo, andate tranquilli, no worry yourself. Oh yeah. You got to take time for education. E c'è tempo per la meditazione, c'è tempo per l'educazione. For your inspiration. C'è tempo per l'ispirazione. You got to take time for God in your life. C'è tempo per vivere la vostra vita. You got to have time for. Ma non c'è tempo per lavorare. You got to have time for His Majesty. You got to have time in your lives. You got to take time for meditation. You got to take time for education. You got to take time to know your brother. You got to take time to know your sisters. You got to take time to know your people. You have to take time to know. E devi prendere il tempo per conoscere i tuoi amici. Dice Jashaka, nella tua vita devi avere il tempo. You got to have time in your life. Mo, Downtown Rockers su Radio Onda Rossa 87850 in FM. Oh yeah. E quindi prendete il vostro tempo. Il capitalismo ci ha insegnato che il tempo è denaro. Stravolgere questo concetto è fondamentale. Il tempo non è denaro. Il tempo è vita. You got to take time for your inspiration. You gotta take time for your inspiration. Thank you. tutto ciò. I Rasta lo chiamano salvezza. For salvation. Per salvarsi. Noi lo chiamiamo liberazione. Qualcun altro rivoluzione. Yes, you know. I will accept a part in God's plan for salvation. For salvation. For salvation. Each 5 minutes that you spend, He will accept your words. Each 5 minutes that you spend, He will accept your words. For salvation. For salvation. Give us the power. Salvation. I will accept a part in God's plan for salvation. For salvation. Rankis Nano, selezione. Morning God's plan for salvation. Come again. And he will do the rest. Rimetti sta versione, Mario. Mo, Downtown Rockers, ogni mercoledì su Radio Onda Rossa 87 8 e 50. Roots, reggae, rabadaba. For Salvation Dub Wise. Alle 3 e 11 minuti le vibrazioni volano sull'etere, viaggiano ed arrivano fino a casa vostra, nelle vostre orecchie, nelle vostre auto, ovunque voi siate, chiunque voi siete. Aisha, quindi alle 3:15 circa ci prepariamo a salutarvi, ricordandovi l'appuntamento di domani, giovedì 7 novembre, per cui tra qualche ora, sempre da queste frequenze, dalle ore 10:30, scommetti che ti sparo, dibattito radiofonico con gli occupanti del centro sociale Forte Prenestino sugli fatti avvenuti il 2 novembre, sulla tentata strage, sui 10 morti che sono mancati. Ricordandovi questo appuntamento per domani, sempre da queste frequenze, vi auguriamo una buona nottata, salutando tutte le massicce e crew di Roma e dintorni. Villa da Posse, One Love Crew, One Love Corner. Rockaz il venerdì sera dalle 10:30 in poi. Ardo, Frankie, Cinese, Country, Robert T, l'ingegnere, Robert T.